Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio e buon primo maggio da Andrea Ferro. Dopo anni di attesa, il pacchetto stradale, cioè un insieme di norme ed indirizzi ai quali i paesi dell'Unione Europea dovranno fare riferimento in materia di trasporti su strada, pare veramente in dirittura d'arrivo. A confermarlo è stata la commissaria ai trasporti, la slovena Violetta Bulc, in un'intervista rilasciata ad un giornale francese. In materia di autotrasporto di merci, la Bulc ha delineato i contenuti del pacchetto, anticipando che il tema centrale che divide l'Europa, cioè gli squilibri del mercato ai quali è collegato il fenomeno del dumping sociale, sarà affrontato con una serie di misure specifiche. In particolare sul cabotaggio stradale, cioè la possibilità per un vettore straniero di svolgere servizi nazionali in un altro paese nel quale è giunto per effettuare un trasporto internazionale, la commissaria ai trasporti ha annunciato una semplificazione delle norme. Si passerà dal limite dei 3 servizi attualmente previsto alla variazione del tempo massimo concesso per lo svolgimento dei trasporti in questo regime, che ora è di una settimana. Altro tema caldo è quello del salario minimo, già imposto ai vettori stranieri da alcuni paesi come Francia e Germania, e per questo finiti nel mirino della Commissione Europea. Sul punto la Bulc ha ribadito che misure di questo tipo contrastano con i principi comunitari, ma contemporaneamente ha annunciato norme più stringenti contro le imprese di trasporto fantasma costituite nei paesi dove i costi del lavoro sono sensibilmente ridotti rispetto a quelli della vecchia Europa. E poi si prevedono incentivi per la sostituzione dei cronotachigrafi tradizionali con quelli digitali e nuove norme sul riposo settimanale in cabina. Il contrasto alla concorrenza sleale praticata dalle imprese dei paesi dell'est a danno di quelle italiane è stato l'argomento centrale dell'incontro che si è svolto nei giorni scorsi al Ministero dei Trasporti tra la sottosegretaria Simona Vicari e una delegazione di Unatrans, l'Unione delle Associazioni dell'Autotrasporto, che su questo e altri punti hanno proclamato il fermo senza indicare al momento la data. Al microfono di Massimo De Donato sentiamo la sottosegretaria Vicari. La concorrenza sleale è abbastanza complesso, che non è un problema che riguarda soltanto il nostro paese, ma complessivamente insomma tutti i paesi europei. Abbiamo noi predisposto delle norme che il Ministero dei Trasporti condivide appieno, il Ministero del Lavoro un po' meno. Questa è già una brutta notizia, però. Perché ci sono delle questioni che sono state sollevate dall'Europa, c'è un pilot aperto nei nostri confronti e devo dire che però ci sono alcune questioni che, anche se in alcuni casi l'Europa non le condivide appieno, però ci sono dei paesi che comunque le portano avanti. E ora la posizione delle associazioni con Paolo Uggè, presidente di FAI Conftrasporto. Noi siamo italiani, rappresentiamo le imprese italiane e, così come fanno altri paesi, riteniamo sia giusto, perché questo era l'impegno che il ministro si era assunto pubblicamente, che vengano inserite quelle norme così come hanno fatto Germania, Austria, Belgio, Olanda e quant'altro. Poi vedremo le posizioni europee, ma intanto non vorremmo che passasse troppo tempo, gli altri hanno le norme, noi invece non abbiamo le medesime norme e gli stranieri vengono qui e ci fanno concorrenza. Per le altre questioni sul tappeto, buone notizie su Mare Bonus e Ferro Bonus, gli incentivi a favore dell'intermodalità. Entro poche settimane i relativi decreti saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, ha detto la Vicari. Buone notizie anche per le risorse a favore del comparto, che saranno confermate per il prossimo triennio. Capitolo revisioni: a breve negli uffici della motorizzazione più in sofferenza per gli organici insufficienti entreranno in servizio nuovi ingegneri. Ancora irrisolte invece restano altre due questioni importanti: costi minimi di riferimento e il rispetto dei tempi di pagamento. Al momento il fermo proclamato da Unatras resta, ogni decisione è stata rimandata alla prossima riunione dell'esecutivo in programma il 10 maggio. Un altro dei nodi da sciogliere riguarda la paralisi dei trasporti eccezionali, un effetto indotto dal crollo del cavalcavia avvenuto ad ottobre in Brianza. La sottosegretaria ha annunciato che la direttiva è pronta e sarà presentata alla riunione della conferenza Stato-Regioni in programma lunedì prossimo. Il provvedimento prevederà la deresponsabilizzazione delle imprese di trasporto rispetto agli enti proprietari delle strade. E a proposito di viadotti e trasporti eccezionali, c'è una notizia che arriva dalle autostrade che collegano il Lazio alla Brianza. Abruzzo, la A24, la Roma-Teramo e la A25, la Torano-Villanova. Per motivi di sicurezza, a breve, su 8 viadotti di queste autostrade scatteranno limiti alla circolazione dei mezzi pesanti e dei trasporti eccezionali. La società Strada dei Parchi, che gestisce le due autostrade, ha comunicato la decisione al Ministero delle Infrastrutture. Le relative ordinanze dovrebbero essere firmate a breve. Sentiamo cosa succederà nel dettaglio e perché da Igino Lai, direttore generale di esercizio di Strada dei Parchi. Abbiamo in corso una campagna di misure particolarmente efficaci che ci devono consentire di prevenire eventuali situazioni di degrado per non dover affrontare in maniera imprevista e imprevedibile situazioni critiche che possono anche comportare per la circolazione problematiche di sicurezza. Quindi stiamo lavorando nella prevenzione per garantire sempre e comunque la sicurezza della circolazione. Per far questo, su alcuni viadotti, su circa 200 tra cavalcavia e viadotti appunto che insistono sulle autostrade A25 e A24, che saranno oggetto di una cura, di una terapia particolare. 4 sono nella regione Lazio e 4 sono nella regione Abruzzo. Su questi viadotti avremo un'ordinanza che impedisce il traffico e i trasporti eccezionali, cioè quei trasporti che per dimensione e carico superano i limiti previsti dal codice della strada, mentre per i veicoli pesanti e solo per questi verrà disposto il divieto di sorpasso per i veicoli di portata superiore a 3,5 tonnellate, verrà disposta su questi 8 viadotti il divieto di sosta in corsia di emergenza e verrà adottato un distanziamento superiore alla norma per quanto riguarda la distanza che nella circolazione devono osservare questi veicoli pesanti. La 24 e la 25 si allungano su un territorio bellissimo ma fragile, tormentato da mesi dalle scosse e di terremoto, di qui un'ulteriore campagna di controlli avviata dalla società concessionaria. Ancora Igino Lai. Abbiamo avuto negli ultimi 7 mesi, da agosto dello scorso anno ad oggi, più di 60.000 scosse. Le nostre strutture hanno retto benissimo a queste sollecitazioni, anche perché avevano una magnitudo tale da non comportare problematiche. Però tenga presente che sono strutture che sono nate alla fine degli anni 60, quindi con caratteristiche strutturali e soprattutto con carichi imposti dalle norme di allora che non erano severe come quelle di oggi. Quindi noi dobbiamo fare in modo appunto che su queste opere il transito deve avvenire sempre comunque in sicurezza. Per far questo ci siamo messi a lavorare con delle tecniche particolari che prevedono di poter andare a indagare su quelle parti delle opere che non sono visibili a occhio nudo e quindi faremo dei fori sulle travi per andare a vedere appunto con delle sonde, con degli endoscopi, lo stato di conservazione dei cavi di precompressione che stanno all'interno delle strutture in cemento armato e che sono quelle che assicurano la stabilità a queste opere. Nella puntata di lunedì in apertura avevamo presentato il Click Day per gli aspiranti autisti di camion che è andato in scena giovedì scorso, primo giorno utile per poter aderire al progetto Giovani Conducenti promosso dall'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Collegandosi al sito www.giovaniconducenti.it e compilando la domanda, nelle prime 36 ore quasi 1000 giovani si sono iscritti alla lista dei potenziali partecipanti al percorso formativo che si articolerà in due parti. Lo ricordo, nella prima i ragazzi conseguiranno il certificato di abilitazione professionale con uno sconto dell'80% sulle tariffe previste, nella seconda seguiranno un periodo di stage nelle aziende. Silvio Faggi, vicepresidente dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Direi che è andato molto bene. Come sappiamo tutti è stato il primo giorno, alle 13 avevamo già ricevuto 450 adesioni, ovviamente saranno tutte da verificare per capire se chi ha fatto domanda ha tutti i requisiti e quant'altro, però oggettivamente mi sembra un dato molto interessante per essere il primo giorno e tenendo presente che sarà possibile iscriversi fino alle ore 13 del 19 maggio. Diciamo che noi contiamo di soddisfare un migliaio di richieste. Sulla base dei riscontri che si paleseranno al termine del periodo di iscrizione, come abbiamo sentito poco fa, già i primi segnali sono incoraggianti, non si esclude che il progetto Giovani Conducenti possa diventare strutturale, almeno per alcuni anni. Sentiamo ancora Faggi. Il budget per quest'anno è di 1 milione di euro. È un budget che è stato come dire, messo a disposizione dall'albo in via del tutto sperimentale. L'idea è che se poi questa iniziativa è apprezzata e trova, come dire, un buon riscontro, come pare da questa prima giornata, si possa poi ripetere negli anni prossimi. Con questo per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, con hashtag Autotrasporti noi ci risentiamo lunedì prossimo alle 13.45, grazie per l'attenzione da Andrea Ferro, buon pomeriggio e buon primo maggio. Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.